capirai, perché nessuno te le spiegherà mai. Ma abbi fiducia, perché tanto lo sai, che poi da solo tu ci arriverai. Ci sono donne che non amano mai, perché la vita le ha tradite, sai. Ma vai tranquillo, perché tanto vedrai, sei tu quell'uomo e tu la stupirai. Ci sono giorni in cui tu piangerai, in altri invece giuro ti scasserai. Tu tieni duro e alla fine vedrai che verrà fuori vero quello che sei. Affronterai, saranno leggere forse come.